chi è questo ciucucciù? Ah, è Nazzalino. Vabbè, ti sei calmato da ieri, sei più sereno. Ciao Marcoli, sì, tutto ok. Tutto appianato per adesso, dai. Io ho fatto colazione adesso con mamma e ho sentito te chiamare, ma ho sentito solo te. Non c'è nessuno, non c'è. Stavo dicendo, come sto uscendo del radio? Benissimo. E sono con quello Lanni, con quello con la I. Chiaro, limpido, recoaro. Cava cava. Ho sentito Concetta ridere, come ho detto, chiaro, limpido, recoaro. Infatti Marco lì, ho riso per quello. Scommetto che c'è meglio di me il radio. Ah, lei, vabbè, la voce femminile, diciamo, già si è adatta bene anche alla radio, è più squillante, un tono più alto, capito? E almeno, diciamo così, se no si rovina questo qui. Te lo faccio un caffè? E fallo con c***o. Visto là, la 50 mi fa anche il caffè, gatto. Oh, io, trattala bene, se no poi già lo sai il mattarello, no? Mattarellum, hai vendimi uno di quegli apparecchi che c'hai tu e quello che c'ho io, no? C'ha 40 canali solo, che se mi esce qualche DX me lo faccio, tanto qua non c'è mai nessuno, almeno posso girare. E in estate magari, in estate si fa quell'operazione che ti ho detto. E almeno puoi spaziare, puoi fare qualche DX così. Questo qui non lo voglio toccare, se no sai com'è. Volevo dire, il segnale com'è? Buono? Prova. Guardi. Qua è più 30, 9 più 30. Schmitter a lancetta e poi lo Schmitter è come quello del 3009 praticamente. L'apparecchio è un presidente. Bello deve essere quello lì. Come? Che deve essere bello. È piccolino, questo è il più piccolo, non ha SSB. Ha MFM, poi vabbè c'ha qualche levetta, solite cavolate, noise blanker, iCut, poi c'ha due canali di memoria, programmabili peraltro, emergenza 1, emergenza 2, ci puoi mettere o il 9 o il 19 oppure il canale che vuoi tu. Poi vabbè c'ha le regolazioni tipo il beep, il colore del display, piccole cose, comunque è abbastanza compatto, non è microscopico però è compatto. In macchina già è carino anche questo. Ah, in macchina io c'ho un 34 canali, bellissimo, antico, della Intec e funziona benissimo, piccolino. Prima ho sentito una cosa distorta, come qualcuno mi chiamasse con un processore tipo Kemble inserito, ma era talmente distorta che non si è capito niente. Non so se l'hai sentita anche tu. Sì signore. Questo qui mi... Eia, ma è proprio in distorsione. Chi è Luca? Flipper. Mi sto facendo sto, ma scherzi. No, adesso no, ma appena entrato, quando forse avevi salutato, si è sentito tutto cioè. No, ti spiego, ti ho chiamato e non mi hai risposto. Forse non sto uscendo, mi sono spostato, eppure è tutto a posto. Ma la radio è troppo problematica, Luca, se ne è rientrato, se ne è tutto con voi. Dovrete passare a prendere anche vicini, forse tutto è un microfono, quelle di distorci. Anche questo mi scocciava del 140 a me. Devo stare a una certa distanza, tararlo bene, poi siamo vicino magari che non me ne accorgo, strappa e una paranoia. Invece qua baracchino, microfono originale, bello, non distorce, non strappa, che parli lontano, che parli vicino, è uguale. Luca, un QRK per cortesia. 925, aspetta. E guarda. guarda un po', questo qui è... chi sono? Mi ascolta. Natalie. Dimmi. Prova. Guarda, 1, 2, 3, prova. 925, radio 5. Normale, senza essere, perlomeno qua, non mi sembra molto amplificata. Però è bella, va bene. Cosa amplifichi? Posso farla un po' più forte, vediamo un po' come esce, guarda. Guarda così un po'. Ammazza, te ne varia. Sono tutto nudo a vaso, e anch'io se faccio così. Marco, avanti. Si è sentito l'incremento, è Natalì. Stavo sbirciando fuori e vedo un bel cielo azzurro. E qua bisogna fare qualcosa, andare in campagna, farsi un bel giro, caspita. Io mi sto preparando l'attrezzatura che domani mattina me ne vado a Sippia. Che il mare si è deciso a calmarsi. Ah, anch'io vorrei andare, ma non lo so se fa freddo, perché sto influenzato, capito? E sto temendo a uscire. Domani è come oggi, è uguale. Purtroppo. Allora che si fa? C'è freddo, no? Qui già c'è il sole, ma poi camminando, qua è una pesca che devi camminare, non è che ti fermi e lanci, capito, Natali? Poi ci scalda camminando, a voglia. E ce l'ho la tottanale, c'ho anche due cannette per andare a Sepi e calamari, proprio da aging. Io già lo pratico da un po', aging e spinning, surf casting l'ho abbandonato da un po' di anni ormai, poi mi sono andato a subacquea. E adesso spinning e aging, adesso è il periodo delle seppie, calamari, così che fino a maggio. E infatti anch'io vorrei andarci, mi piace un sacco, ma sto temendo il freddo, perché sono un po' influenzato, sono una settimana così e non mi senti dalla voce. Vabbè, già, appena ti rimetti vai, arroggia, a Marco ti bacia quelle 2-3 ore, dai. E almeno so cos'è in prigione, in prigione sono, almeno e vado un po' da qua. Io le mie canne sono tutte, quante, 15 anni, 20 anni più che non le uso, i mulinelli sono da buttare perché erano già da 13. Le canne vanno bene, sono volgari canne in coso. Come si chiama il materiale delle canne? Petro resina o come si chiama? Fibra di vetro, quello che è. Servo anche una bella organizzazione, piombi di tutti i tipi, ami, tutto bello. Sai quelle cassette da pesca, una più piccola e quella più grande dove c'è il grosso del materiale. Però tutto è malora, non c'ho pazienza, poi di notte, se si andava di notte, perché noi andavamo di notte, poi tra freddo, umidità, mi è passata la gana, capito? Però mai dire mai, mai dire mai. Lo so, a me almeno mi rilasso, quando vado a pescare almeno vado da qua. Questo è la V508, il microfono. Sì, lo conosco. Lo conosco, è quello più semplice. Invece Gianni aveva avuto la V908, che però aveva troppe regolazioni, c'aveva equalizzatore, c'aveva mi pare processore, guarda un bel di roba aveva, troppa, però te ci perdevi con le regolazioni. Meglio semplice che abbia meno roba possibile. Tanto quello che importa poi è l'audio, è al limite un po' di tono, come il più 5, l'MB più 5, tono più alto, meno alto, ed è fatta. A me mi si è rotto il commutatore d'antenna, proprio la lamella, era di quelli belli, dai, vabbè. Adesso me lo devo comprare, se no è un macello inoltre. Che commutatore avevi? Uno di quelli d'Aiva, però ragazzi, mi si è crepata una aletta che siccome è fatto con le alette per fare i contatti e mi si è rotto quello lì. Adesso sono senza commutatore, va a Pangualla. E mi tocca romperlo. rompermi le scatole ogni volta se devo cambiare apparecchio, per esempio, è un macello. Sì, il commutatore è una cosa che non ho mai preso. Guarda, mesi fa avevo preventivato un commutatore a due posizioni Daiwa, il classico, e poi un carico fittizio. Il carico fittizio avrei preso quelli che faceva Luca, poi però, sai, arrivano altre spese, magari impreviste, e non riesci a prendere la roba che ti serve. Il carico fittizio lo stesso mi serve a me, e non ne ho. Cioè, ce l'ho uno bello amproso, però ce l'ha un amico mio. Io peraltro l'ho avuto il carico fittizio, tipo della Oxin, era quello che ha quel cilindrico nero, con queste specie di alette di raffreddamento sempre cilindriche, però aveva un falso contatto interno e quindi rischiavi di bruciare l'apparecchio, e poi ce l'avevo proprio buttato, non l'ho nemmeno riparato, l'ho buttato via. Mi era venuto un attacco di rabbia e l'ho buttato proprio nella spazzatura. Invece avrei fatto bene a smontarlo, perché c'erano delle spine, come quelle delle pistole, le spinette, no? Batterle con un chiodo, saldare bene dentro il falso contatto e rimetterlo a posto. Invece mi è venuto così, il raptus. Raptus omicidia ti è venuto. Cazzo, io ho la macchina fotografica che non la sto usando, io dico ci sono più di 1.000 euro di valore, tra obiettivi e tutto, di quelle digitali è bella grossa, cazzo. C'ho il teleobiettivo 70-300, no, ehi, 300 mm, poi c'ho il grand'angolo, l'obiettivo normale, cazzo, qua, una Canon, gira gira me la prendo, perché cazzo è un peccato, nuova, mi. Cosa cazzo l'ho usata? Come a pellicola o digitale? No, digitale, c'ha una memoria dentro paurosa, c'ho anche c'ha quell'affare per che ci mettono due batterie dentro, ne ho tre batterie, e in questo affare ne metti due e ti dura chissà quanto, che si attacca sotto la macchina fotografica, è bellissima, guarda. Sì, quelle andrebbero vendute prima che perdano troppo valore, perché sai, queste cose digitali risultano sorpassate dopo poco tempo, eccetera. E Luca, riprendi, li fai sempre i cosi, come si chiamano? Adesso non mi ricordo. Quando tu vai a colorare un oggetto, che lo immergi in quella vasca, e praticamente quella pellicola col disegno si attacca, come si chiamava quella roba lì? Copricatura, sì, se non sono oggetti molto grandi, sì. E mi ricordo, guarda, sfogliando vecchie foto, magari salvate sul computer, salvate sull'hard disk, ti ricordi quell'alimentatore famoso switching che vendevano da eBay, che c'erano tutti i CB? L'avevi fatto, mi pare, con il Joker, un po' bello colorato, bellino. Sì, aspetta che stavo mandando l'altro che avevo fatto, il carico fittizio, ecco. Quelli a bagno d'olio erano, no? Quelli che facevi tu. È carino, anche se, come si suol dire, vabbè, uno lo mette per controllare i watt della radio quando la compra, se è tutto a posto, però alla fine la radio si usa in antenna, e quindi i watt che misuri sono quelli che vanno all'antenna poi. Si è notato che in base all'antenna, soprattutto le veicolari, in base all'antenna che ci metti, cambiano anche i watt misurati, pur non avendo stazionarie. Non lo so cosa influisca. L'apparecchio si misura col carico fittizio, l'antenna non ci vuole, per avere le misurazioni devi fare le misurazioni col carico fittizio, è tutto il contrario, Marco, con l'antenna per forza varia. Sì, Sì, quello lo so. Per esempio, quando compri una radio nuova, per essere tutto a posto, la controlli col carico e sai i materiali. Però poi mi chiedo, quando tu metti un'antenna che adesso veicolare, no, e vedi che ti cambiano i watt, no, misurati, ma alla fine quelli misurati in barra mobile sono quelli che vanno proprio all'antenna veicolare. Non ti stavo seguendo, che stavo vedendo una cosa qua, stavo guardando. Quella a fare con la pentola cos'è, Luca? Quello è il carico fittizio, l'altro. Quello l'ho fatto a raffreddamento e praticamente era un ex alimentatore di computer, quello lì. Siccome era bruciato l'alimentatore, allora ho sfruttato il case, ho sfruttato il case per... ci ho messo dentro un dissipatore, non so se riesce a vederlo, e la ventola collegata. È bellino, il carico fittizio, sì. Io ce l'ho uno, ma l'ho dato a un amico mio perché non ne usavo. Gira gira me lo faccio restituire, che serve sempre. Serve sempre, sì, soprattutto, vabbè, io perché compro, vendo, rivendo, capito? Così che io sempre sotto carico fittizio faccio i video. Anche perché se non hai un'antenna dedicata non puoi fare un video vendendo una radio in 40 metri. Cioè, in 40 metri ci vai invece col carico fittizio, gli fai vedere che quella radio esce con quei watt, eccetera, eccetera. Poi gliela puoi attaccare anche a un pezzo di filo, fargli sentire la ricezione. Ma per fargli vedere la trasmissione, i watt, sempre sotto carico fittizio io gli mando i video. Te lo dico pure. Infatti la misurazione più precisa col carico fittizio, sei sicuro che sono 50 ohm, capito? Certo, questo arriva fino a un giga di terminali che ho usato per fare questo. E figurati, anda bene me da Luca. Bello anche quell'affare là, cos'è, un 440? Non l'ho visto bene quella. Cos'è? Un ricevitore, boh. E se vede che la vai dubbio umano. Rusmano. Anche sta quella. E se a adesso ti mando la foto del ricevitore, aspetta. Il ricevitore, che sia un R2000. Natalia, a me piaceva da matti l'R5000 Kenwood. Sembrava un 440. Infatti l'R5000 piaceva da matti anche a me, il ricevitore quello lì era, sembrava un 440, sì, è uguale praticamente. Sì, solo che a differenza di un 440 che magari lo trovavi sui 400 euro più o meno, R2000 a certi prezzi, cioè teneva il prezzo alto, o meglio chi lo vendeva usato teneva un prezzo altissimo. Ha detto no, lasciamo perdere. Lo so, ma quei ricevitori sono, capito, sono belli quei ricevitori. Beh, visto che hai video. Eia, sono due radio, non una. E chi è questo? Chi è questo? E io ti faccio mangiare il brodino di mamma, lo sai, eh? Me lo bei. Chi c'è? Cazzo, non lo senti? No, provo a togliere lo squelli, si aspetta. Oh, io sento lo spagnolo. Oh, Natalie, mandalo avanti, chi è? Vieni avanti. Anche io ho sentito la propagazione adesso. Non lo senti, Emanuele? No, Natalie, come ieri, nulla. E poi sento spagnoli che parlano. Spagnoli, almeno credo che siano spagnoli. Eia. Salutamelo, vabbè, già forse mi copia, copiare mi copia. Però la propagazione me lo copre. Ciao Emanuele, se mi copi. Ascoltato, Emanuele. Ha detto a salutarti, Emanuele. Ha detto che lui già ti sente. Purtroppo... sei tu che non senti a lui. Magari in FM forse vi potete sentire. Ce l'hai l'FM, Emanuele? K Emanuele. Sentito l'hai Luca Emanuele? No, non lo sento. Come lui non sento a me, dai, c'è che devo andare a preparare il fuoco. Già vi ascolto con il ricevitore fuori in terrazzo. Ah, la sorte che sempre mangiando sta questo Luca, boh! E lui è avvantaggiato perché c'ha lì la terrazza, può arrostire come vuole, tanto il fumo va in alto, non va da altri condomini, capito? Beato lui. E io sai che te ne mandi roba da mangiare, oh, le fotografie mi mandava, ma roba da mangiare non me ne mandava mai. Fazia le pizze, già ne faceva poco di roba. A te le immagini, questo Luca Flipper. Sì, sì, mi mandava coso, canna arrosto, di tutto. Eia. Chi altri c'è sul 10 che vuole entrare avanti? Oh, noi solo ci siamo, Marco lì. Cazzo Luca ci ascolta che deve preparare il fuoco, io dico roba di arrostita e noi a bocca asciutta, bobo, a te lo compri a questo Luca Flipper. Manue, FM Cucino, da che Marussi, da, oggi in mafia. Manue, come ti sto arrivando lì? Che sto usando un altro apparecchio di quelli antichi. Lo so, lo so. Questo è un apparecchio antico, Emmy. Ah, di quei baracchini vecchi, un 23 canali questo, sì, è bello, ragazzi, mi piace un sacco. Marcolino Condor già lo conosce questo qui, questo 23 canali. Sei quello che ho visto l'altra volta in foto, sì, quello dello Schmitter verticale. Mia, adesso te lo mando, e così lo vedi. Io mi sto ancora stiracchiando, mamma mia, sono intorpidito ancora dal sonno. Guarda Marco lì, quel 23 canali è mi. Aspetta che vado a pigliare il telefono che era in carica. E sopra ci ho messo l'accordatore. Ah, bello, sì, sì, di quei baracchini vintage, però le foto sono sempre mosse, molto mosse, mamma mia. È sfumato, però si capisce, dai, che baracchino è. E mossa è uscita la foto. Eh sì, cioè completamente mossa, non c'è nessun punto né vicino né lontano che è a fuoco. No, cioè non a fuoco, è mossa, dai. Perché fosse stata sfocata magari o davanti o dietro metteva comunque a fuoco. Cappa, aspetta che c'è un altro messaggio. C'è qua, vediamo cos'è, un video. Un video. Ma è bella roba. Guarda se si vede meglio adesso. Sì, molto meglio, molto meglio. Adesso sì. E poi va bene, quindi il microfono normale, no, mi hai detto la V508, giusto? Era al telefono Marco, che mi ha telefonato una persona, mi sta passando roba per farmi passare sto cavolo di raffreddore. Stavo dicendo, se si vede meglio la situazione. Sì, molto meglio. Visto lei che 23 canali è? Via, vintage. Con questo qui già va bene la situazione. È a minimo. Molto alta la radio quando giro la manopola. Ah, come prima? Sì, abbastanza. Figurati. Infatti sono il minimo. Sì, la voce mia, che brutta. Anche quello c'ha Luca, quello che il ricevitorino X ha cadata lì. Eh sì, lo so. Che ha me lo dovevo buscare uno di quelli. Sì. Però le foto sono sempre mosse, molto mosse, mamma mia. E sfumato, però si capisce dai che parecchino è. Aspetta, Marco, è la mia voce. Non mi piace la mia voce in radio. No. È venuto quell'amico a portarmi questa roba, adesso me la faccio dopo pranzo, e vediamo un po' se mi basta il fuggavolo di raffreddore, sono tutto raffreddato, sto messo male. Ma senza febbre? No, febbre non ne ho, c'ho solo questo catarro qua, raffreddato, boh. A forza di tachipirina, misovolintux, da voi cosa so cubiglielli? Guarda, non ne posso più. Sì, poi sempre quella è la roba. Io vado di aspirina quando sono un po' raffreddato, c'è un po' di mal di testa, aspirina e boh. Catarro me ne viene raramente, molto molto raramente, anzi praticamente mai. Anzi, lui non può parlare neanche. Se tu lo vedi, lo senti come, già l'ha sentito, a Franco sto dicendo. Ah, che lui gli ha preso la gola, gli ha preso. Lui è peggio di me. È peggio di me lui. L'ho sentito ieri, era rauco, sì. Te lo sto dicendo, qua è una cosa che non si gridi, ci si influenza del cavolo. Siamo usciti assieme, ce l'abbiamo beccata assieme. Sì, infatti, guarda, io le poche volte che ho preso qualcosa era perché uscivo magari da sera, la notte con qualcuno che magari era incicciato un po' e poi me la passava a me, capito? Che poi a me passa e va, cioè io magari mi sento un po' così, mi piglio l'aspirina e all'indomani sto meglio. Infatti, ma io sono già 4-5 giorni così, ma me ne volevo andare a pescare domani, ma se non fa un po' di caldo non esco, perché sennò è peggio, non mi basta mai se a gol. E conta che c'era freddo in questi giorni, abbastanza freddo, da domani, forse anche da oggi, non so, dove è la temperatura, comunque da domani dovrebbe salire abbastanza anche la temperatura, si rimette il tempo, capito? E un po' così, da, eravamo sotto il coso della, una, come si dice, coso della Russia, mi pare, dalla Siberia, un'ondata di freddo che arrivava da lì, dal nord comunque. E infatti, mamma mia, ma che vuoi che ti dica? Cazzo, devo comprarmi un commutatore d'antenna, sennò qua è un macello. Comunque domani, se fa bel tempo, vado a farmi una pescatina così, magari a seppie, non ci vado di notte, no? Se no anche a calamari potevo fare qualcosa. Luca, cosa c'è? Il negozio c'hai? La rivenditoria? C'è poca roba, Luca. Un negozio sembra. È una scienza questo, Luca, è una scienza. Sono radioamatori anche. 7875. Dovrei ascoltare più in HF, cosa che non faccio più. Così ci ho perso anche la pace, sai perché spesso senti solo, come si dice, quello uno dietro l'altro, porca miseria, contest, segnale, radio, è nominativo, tutta la sera così, preferisco sentire le chiacchierate, come chiacchierate tra italiani, dai. Lì mi puoi sentire in 40 metri le chiacchierate, i contest non piacciono neanche a me, cosa... è una gara praticamente il contest. Via. Ma questo 145-78-75 è un ponte? Oppure sono in diretta? Credo sia ponte però. Dovrebbe essere un ponte, non mi rammento. Ma mi sto scoglionando, tanto esame non ne do, non me ne sbatte un cazzo. Né a giugno né a maggio, a bisogno mio, non ne danno, lo daranno a novembre, mi sembra, boh. Non so se studiare oppure no, boh. Beh, comunque tu le nozioni le hai acquisite, quindi devi ripassare al limite. Ripassare. Poi ieri siete rimasti in radio, perché io poi ho mollato e non sono più rientrato, dovevo far roba. Sì. Già, io non ho parlato più dopo un po' perché stavo mangiando, capito? Dopo quell'ora io non entro. Ma già ascoltavo, capito? Cazzo, questo è il russo. Forza Ucraina, forza Ucraina. Abbasso la Russia. 927827. Passiva! Non si sa come va a finire qua. La Russia ieri ha fatto un bel attacco di missili contro l'Ucraina, e alcuni pare che abbiano sorvolato la Moldavia e un altro paesino di quei paesi slavi lì. Capito? Se cominciano così, però il missile è passato sulla mia testa, a me non va bene, qua là, insomma, non si sa come usciamo qua. E infatti, è un macello, cura a noi, e ci tocca passarli pure le armi a questi, perché sennò la Russia li fa a pezzi, come li sta già facendo. Natale mi ero allontanato un attimo, che mi aveva chiamato mamma, quindi cosa hai detto? Che ci tocca passargli le armi a questi, perché li stanno facendo a pezzi, se no vincono la guerra questi pazzi dei russi. E poi si allargano la Polonia di nuovo, non lo so, boh. Situazione delicata. E infatti, e non poco, sono pericolosi questi qui. Ah va, lui del remoto, non può dire sussidi in Russia, invece che un die successo. Almeno ce li toglievamo da mezzo alle balle. Ieri c'era un programma su Putin, su LA7, sul tardi, che faceva capire che vabbè, era un ex KGB e però anche un intralazzone, tipo fondi per il cibo, no? Quando è caduta l'Unione Sovietica, che sono crollati, cioè tutto il sistema che c'era prima è crollato, la gente non aveva da mangiare quasi. Non so quanti milioni di dollari per le derrate alimentari, e poi le derrate alimentari lungo, i soldi spariti, no? E le derrate alimentari lungo. Capito? Se li reindascati dicono, perché questa è propaganda occidentale poi, no? Se viene intascato lui, che all'epoca era, mi pare, comunale, non so come funzioni lì, e i suoi accoliti, i suoi compagni di merende, quindi già era un'intralazione, anche dopo il KGB, capito? Un arraffone era, capito? Una specie di democristiano. E amico di Berlusconi, l'avrà imparato da Berlusconi tutto quanto, capito? Perché già lui faceva servizio quando era nel KGB, nella Germania comunista, lì era, è un bastardo quello. Sì, è vero, era lì, era lì. Insomma, poi queste lezioni, forse poi queste lezioni non so se siano regolari e tutto, se non siano truccate, ma è possibile che in tanti anni, che lui ce l'ha parecchio, sempre vince lui alle lezioni, è possibile che i russi siano tutti così compatti, pare strano a me. Ui, cosa compatti? Quelli temono e basta, ma ha capito che quello ti fa sparire, se no... Però ti mette il polonio radioattivo nel tè e nel caffè. E quelli, infatti quelli erano i suoi oppositori già dall'epoca, che dicevano che lui era poco trasparente, che si imboscava i soldi e tutto. Infatti tutti morti, quel giornalista, l'altro giornalista, tra cui quello col polonio radioattivo, che era, compariva calvo in un letto all'ospedale, mangiato dalle radiazioni. Già lo so, gente che si suicida, lui e tutta la famiglia, cazzo. Ah, come qualche oligarca, sì, misteriosamente suicidato, sì, l'hanno suicidato. E questa gente si suicida, lui, tutta la famiglia, quelli della Gazprom, che era il banco matto suo, capito? Come tu fai opposizione, quello ti suicida. Eia, è l'ultimo zar, l'hanno chiamato. Anzi, io credevo che questi qua, i suoi oligarchi, si sarebbero coalizzati e avrebbero detto: caro Putin, qua i nostri interessi ne risentono, date una regolata, lui si sarebbe adeguato, speravo così, invece no. Anzi, se sei contrario, ti fa suicidare, tra virgolette, capito? Siamo andati gli scagnozzi, in scena un suicidio, sotto di mezzo il dissidente, bello. Più che così non può fare lui, capito? E comunque ci vanno pesante in Russia quando fanno quelle manifestazioni contro la guerra, no? Che dovrebbero essere le più ovvie, no? La popolazione di solito è contraria alla guerra, manda lì la polizia a pestare, a arrestare, capito? Lo stesso fanno manifestazioni anche gay, no? Che vabbè, io non condivido, però ognuno se la vive come vuole. Quando fanno quelle cose lì, arcobaleno, niente, manda i poliziotti a menare, pestare e arrestare gente. È molto democratico come paese. E infatti, non è che lì sì, come in Italia, no? Lì se fai manifestazioni ti arrestano e ti mandano a spalare neve in Siberia. Ti mandano nei gulag. Poi non si sa, non so se fossero manifestazioni autorizzate, non autorizzate, non so nemmeno se ne autorizzino le manifestazioni, non so come funzioni. Cappa. Ma stai scherzando, mica non sei in Italia, le manifestazioni non sono mai autorizzate, come fai una manifestazione subito in Siberia, picchiato e in Siberia. Luca ha mandato il bracciere, mi puzzinoso. E cosa c'è? Cosa ci sono? Salsicce, fette in carne, coratella, cosa c'è? No, per il momento non c'è nulla, c'è solo la graviglia in chivi che si sta disinfettando. Ma dimmi tu che... Vediamo un po', allora, io così sto parlando di lato al mic, diciamo a tre quarti quasi, no? Da vicino. Vediamo se vado invece quattro dita frontale, cambiata molto la modulazione, è più bassa. No, di lusso, va benissimo. Ah, ok, vabbè, quindi va bene sia frontale sia di lato, ok. Comunque questi presidenti vanno bene, a parte la rumorosità, perché il 2009 non becca sto QRM, poi però la cosa strana è che vai ad ascoltare lo stesso segnale con due baracchini, cioè col 2009 e con questo, e bene o male la persona la ricevi quasi allo stesso modo. se questo segna più QRM, però lo segna, ma è come se fosse, per esempio, aspetta, per esempio adesso mi segna 5 di QRM, no? Tu vai a vedere col 3009 ed è 3 di QRM, però la persona la riceve allo stesso modo, è come che qua ne segnasse 5 di QRM, però la ricezione poi è la stessa, capito? È un po' strana questa cosa. Sì, vabbè, ogni apparecchio ha le sue caratteristiche, capito? Questo per esempio c'è un ricevitore che è la fine del mondo. Comunque invece negli anni 80, ti ricordi? Anni 80, metà anni 80, di notte, quando praticamente il QRM cessava, no? E c'era un silenzio tale che sembrava che avesse messo lo squelcio, non si sentiva niente, nemmeno il soffio del ricevitore. Era incredibile la pulizia che c'era in radio. Adesso io mi chiedo, se tornando indietro nel tempo io mettessi questo baracchino negli anni 80, sarebbe altrettanto silenzioso come quelli, oppure gira gira prenderebbe lo stesso rumento? Allora è proprio il ricevitore fatto così, non è quello ambientale, capito? Era come il... ti faccio un paragone terra a terra, è presente l'FM500S? Ecco, quando non c'era QRM né atmosferico né elettrico né niente, comunque segnava 3, Santiago 3 di QRM, sentivi questo soffio, ed era il ricevitore che era fatto così, ed era uguale anche il 548 6X di baracchino, uguale. Mentre altri apparecchi tipo i multimode, i samurai, no, i 3009 dell'epoca, erano molto più silenziosi, e quindi di notte, quando tutto era calmo, era di una pulizia, era la frequenza unica. Adesso non è più così, perché tra i lampioni, come attaccare i lampioni c'è la QRM, alimentatori switching di tutti i tipi, che ne so, pompe di calore, qua bene o male sempre QRM lo becchi. E ci sono più disturbi elettromagnetici adesso, non è... prima era più pulita la situazione, adesso invece no, adesso troppi disturbi ci sono. Sì, è vero, proprio QRM elettrico, poi con questi alimentatori di TV, di tutto, un macello, un macello. Va bene. Che ora è? Sì, ancora. Mezzogiorno meno 25, ancora è presto. A quando a mangiare? Poi non vogliamo mangiare troppo presto, vogliamo mangiare tipo 2:30, 3. Lasagne oggi, lasagne. Passa al forno. Mamma mia, perché me ne dici di queste cose? Non me lo dire. Sì, è banale come piatto anche. Pasta al forno. Lo so, è che a me piace un sacco, ma lo sai, no? Mi è venuto il diabete purtroppo e no, non si può. Ma no, non hai sentito, ho detto pasta al forno, con la P. Ah, così è. Guarda, ho visto la griglia. In preparazione, poi c'è una canna da pesca con un mulinello, vediamo che mulinello è sottile come canna da pesca anche. Ma quella è una canna per calamari, ecco, ce ne ho due io di quelle. Sono per andare a calamari e seppie quelle lì, quelle canne da pesca così, che hanno il manico molto corto. Invece quella da spinning ce l'ha più lungo, però ti impedisce se vai a seppie o a calamari con quella da spinning. Sono per cosa? Per aging quelle lì. È sottile, ecco perché non è telescopica, è in due sezioni, c'è la sezione di sotto dove col mulinello e poi quella di sopra, e si innesta più o meno a metà. Mulinello sembra, che roba è, Okuma, No, vedo bene la scritta, comunque dai. Vedo la totanara, vedi? La totanara con la protezione per gli ami, per quella corona di ami che c'ha dietro, no? Eh sì, l'ho vista anch'io. Ne ho due di quelle lì, di canne. Di quelle da aging. E infatti domani, se vado a pescare, mi porterò una di quelle. Sono in due pesi, infatti. Io canne avevo cose da spiaggia, più che altro. Una da 4,5, quelle sempre con gli anelli, però non gli anelli quelli legati e con quello smalto lì, con quella resina, no, quelli un anello metallico, dai, che anche se si stacca ci mette un po' di colla e lo rimetti a posto. Però allora quella corta, quando la chiudi è corta, però c'ha troppe sezioni, capito, e troppi anelli, e non stravedo per quella. Mi piacciono più quelle che hanno meno anelli e le sezioni sono più lunghe, però, e sono anche più leggere come canne, molto leggere. Lì ci metti uno di quei mulinelli belli veloci, mi, oppure quando lanci ti fa un lancio anche discreto. Quindi ne ho una da 4,5, usata pure poco, una da 3 metri con molte sezioni ad anelli, poi ne ho altre due invece, quelle con poche sezioni che sono un po' più lunghe e racchiuse. Quelle sono le migliori. Poi qualcosina di piccolo da 1,5 metri, sai, quelle per il porticciolo, no? Sottili. E poi cosa mi era rimasto? Poi ne avevo una che era grossa, era un metro di canna, grossa, quella per pescare dalla barca, ma c'è il cimino grosso, mi, per tirare su roba di peso. E quella ce l'avevo anch'io, quella per la barca. Poi ne avevo due da traina da 20 libbre con i mulinelli Penn Senator a tamburo rotante, quelli erano. Adesso c'ho due canne da aging, due da spiaggia di quelle da lancio, una bolognese e due di quelle per il porto, dai. Mi ha mandato il salsiccione, c'è un rotolo, un rotolone di salsiccione, mi pronto a essere arrostito. Vendo canne da pesca. Mimì a Gianni, mi. Quante ne vuoi? Per l'utilizzo. E chi se lo vuoi di affossi? Cata, no, neanche io, ma non le sto utilizzando neanche io, ne ho mi di attrezzatura, però non le sto utilizzando. Ce ne ho due da lancio, belle. Poi ce n'è una bolognese, c'ho due da aging, due da porto, ne ho di quelle che mettevamo col cucchiaino, te lo ricordi, già, che quando abboccava il pesce suonava? Sì, col cucchiaino piegato nel mare. Infatti, tirava il bucciarino, e allora noi andavamo subito. Che... Puoi mettere tutto un barattolo, cucchiaino, quello che vuoi. Lo so. Come ti sto arrivando già con questo baracchino? Prova. Guarda a vedere. Quello antico, Emi. Sì, più avanti del 9,30, quasi sul DB. Sì, alla faccia. Quanti watt c'ha? Ehi, 4 watt saranno. Oh, va bene, anche la radio è buona. MK. Ciao Gianni, si parlava di canna da pesca, le mie sono inutilizzate e i mulinelli rovinati purtroppo, anche perché li prestavo. No, io non c'ho nulla rovinato perché li ingrasso ogni anno, mi metto in testa di andare, li ingrasso e poi non ci vado. Li pulisco tutti, li smonto, li pulisco, li metto l'olio che devo mettere, di quell'olio che mi aveva dato Marco, l'Antari, di quello industriale. Perché se metti quello per armi non va bene, lui. Quello va benissimo. Sì. Ti metto anche un coso di grasso, un po' di grasso negli ingranaggi, è tutto a posto. spostata di CRC e via, è chiuduto. Lo so, io ne ho, c'ho mulinelli, canne, già ne aggiungo poco di roba, però Nisba no, non ci sto andando, vorrei andare a Seppio, a Calamari, ma a Calamari di notte come cacchio fai, un ghito freddo, sono tutto influenzato. Di notte ti prendi qualche trombosi, ci hanno venuti in chili, lascia perdere. Lo sai che al padre di un'amica mia, pescando, praticamente gli è venuta una parisi facciale. Cazzo, gli ha detto che ha fatto il tempo e tempo andare al pronto soccorso, l'hanno subito fatto le cure, per fortuna si è rimessa. Ma intanto non riusciva più a muovere la bocca, tutto paralizzato ci aveva, un occhio. Col freddo non c'è da scherzare, no? Se l'altro giorno stava facendo freddo, sono 4 giorni così io. Non ne posso più. Natalia, lo so, e poi a una certa età ti attacca prima l'influenza. Prima sei più forte, poi man mano che si va avanti ci si indebolisce. Infatti. C'è Marcolino Condor. Ciao Condor. Allora, hai visto, l'hai visionata l'antenna? Sì, già, l'ho vista. Questo nome mi suona familiare, infatti è una marca polacca, poi vabbè, la roba è fatta in Cina, però è marcata Sunker, così è. Comunque già ti dico che quell'antenna praticamente altro non è che la classica ML145, vedasi Midland, vedasi Sirio, è praticamente la coppia della coppia della coppia della Midland, della Sirio, della quell'altra marca. Presidente ha fatto la ML145 e tante altre marche, come quel clone che ho preso di marca Telecom, è praticamente la coppia della mia, sono tutte equivalenti. E comunque già, è una cosa da non poco, le basi magnetiche sembrano tutte uguali, anche a livello di resa, ma non sono tutte uguali. In certe addirittura, come spiegartelo? Non te lo spiego, non te lo so spiegare. Comunque non sono tutte uguali le basi magnetiche, quindi tu con la stessa antenna messa su una base ti rende bene, messa sull'altra base ti rende male. Perché certe volte non, come dire, isolata la calza dalla struttura della base, a seconda di che base prendi. Marco, ma io abbiamo tolto quel gommino che ha sotto. E sotto c'ha tutta la carta stagnola per fare più massa, capito? Cioè è tutto, quindi non si può nemmeno smontare, quell'antenna lì arriva già con la magnetica, se la devi smontare devi rompere la carta stagnola, poi non renderà più come deve rendere sicuramente, perché quello lì è fatto in modo che renda di più, sicuramente è così. Sì, è vero. Guarda, se io ti do due basi uguali, che ne so, la Midland da 14 cm, la base sto dicendo magnetica, e la Sirio da 14. La Midland sotto la gomma c'ha direttamente la calamitta. La Sirio sotto la gomma ha questo specie di adesivo di alluminio e loro raccomandano di metterlo. Allora, nella mia era già montato, però nel caso non fosse già montato di fabbrica, loro te lo forniscono e per l'efficienza della base, o meglio dell'antenna, raccomandano di metterlo, quindi qualche funzione deve averla questo alluminio, eppure sembra una fesseria, sembra già, eppure te l'ho detto, la resa è determinante, così dicono. Provato da me, Marco, cavolo, sul mio stesso apparato abbiamo messo due antenne, la Turbo 2001 e quella lì, con la Turbo 2001 attenuato a Lucca dal quadrato, dal tappettino gli arrivavo Santiago 1 con picchia 3, con quell'altra antenna Santiago 3 a picchi di 5. Via. Naturalmente io quando faccio questo tipo di prove già, con una matita mi segno proprio quattro punti sulla base, no? Dove sta appoggiando. faccio quattro lineette anche che si vedano appena, no? In modo da mettere poi la tipo l'altra base o l'altra antenna sullo stesso asse dell'antenna che stavo provando prima, capito? Per evitare che bastano magari pochi centimetri più a destra, più a sinistra oppure più avanti, più indietro, e ti cambia la. Invece no, io me lo segno quasi, capito? E quindi sei rimasto contento, sì. Comunque già, puoi prendere quella, puoi prendere tipo Sirio, Midland, alla fine è sempre quell'antenna lì. Poi quello che ti volevo dire è che la base Midland che io avevo da tanti anni, sì tanti anni ma non tantissimi, fai dal 2010, no? Quella da 12 cm, praticamente ero andato a risaldare il PL, anche lì l'avevo proprio cambiato. Beh, cosa succedeva? Questa calza tu la toccavi col dito, così come se volessi vedere se era ben messa, e si sfaldava, proprio veniva via la calza, una cosa mai vista. Quella è proprio cavo cinese, cavo coassiale cinese, pessimo. E in più ho controllato, non c'era continuità tra il PL e la base magnetica, era proprio isolata. Infatti poi l'ho cambiata e è andata meglio l'antenna, è andata molto meglio. K. A volte si marciscono, forse la marcia, a Taria va. E in effetti è così, addirittura, come mi sta dicendo, c'aveva il magnete più forte, eppure quella di Saverio, della tua, che la tua è più grande, eppure, però attacca di meno. E poi per quanto riguarda il punto, Marco, io non ho avuto problemi perché mi ha fatto il cerchio, no? Era appena umida la macchina, quindi il cerchio l'ha segnato e l'ho messo tutto nel cerchio dove è copiato, va. Marco se deve essere assentato. E vabbè, dai, comunque. Poi non è scandalosa, hai risalto con 2000 euro, la macchina dell'autoscontro è bassetta, dice che dà. E certo che è molto lunga e c'ha lo stilo grosso pure, quella 2001 è molto pesante, è una antenna fatta per i camion, neanche per la macchina, è troppo pesanti e forse non rende neanche, perché per colpa di quella base magnetica che hai tu, rende di meno per quello. Io la mia l'ho tutta lucidata sotto, ma lo sai quanto ci ho messo a toglierne la vernice, perché era molto tenace, questa vernice era forte proprio, e ho dovuto usare la presa per lucidarla col trapanino, perché sennò non ne usciva la vernice. Quando sono riuscito a toglierla la vernice, allora gli ho messo l'antenna ed è una bomba quella che ho io. Sì, no, ma la mia già rendeva lo stesso, non è che non rendeva, a capo lo arrivavo a Santiago Nove, l'Alghero, figurati, rendeva anche bene, in certi punti mi sentivo a Santiago Nove, addirittura Santiago 8, ma devo dire Carlo non mi ha mai perso, quando io stavo tornando dall'aeroporto, vedo si raccoglie poi per l'aeroporto, si raccoglie se arriva a casa, se non ti ho mai perso. Perché la 2001 se fa bene massa rende molto, è come la PLC 800, te lo ricordi quando ce le avevamo fisse, che era un'altra cosa, eppure io con la base magnetica mi rende un bel, perché l'ho fatta bene io con la base magnetica. Cata, sono sceso a Platamona a Concoso e dove pigia bene. Ma sei uscito due volte. Eh già, tu gliel'avevi grattata la vernice in modo che la calza fosse effettivamente a massa con l'alluminio della base, con la campana di alluminio. No, non l'ho grattato, però la base che ho preso io, la vernice sotto non ce n'era, capito? Era alluminio normale, dai, senza essere verniciato. Ah, vediamo, Natalino si è risolto. Lo sentivo a tratti, cadeva la portante. E anche io lo sentivo di... Forse il PTT non sta premendo, Natalì. No, forse non sta funzionando bene. Magari deve spostare un po' di spray. Ah, poi se avete notato, La calamita isolata dalla campana dove la calza tocca, che è sempre isolata, c'è uno strato di resina tra la campana o la guscio di plastica della calamita, della base, e la calamita isolata. Io solo in un caso ho visto